Se lunghezza corda è maggiore o uguale a 10, allora acqua raccolta uguale falso. Altrimenti, se lunghezza corda è minore di 10, allora acqua raccolta uguale vero.